Allora, mentre vi osservo qui dall'altare, io mi chiedo, ma questi miei cristiani che sono qui in chiesa questa domenica, voi avete il cuore pronto a comprendere il significato di questo Vangelo? Certamente siete stati attenti, l'avete ascoltato bene, ma il cuore è pronto a ricevere questo seme, come dice Gesù? Perché vedete, voi che siete qui in paese, ma ancora con tanta campagna in giro, potete capire il linguaggio di Gesù che parla di seme, di campo, certe volte parla di pecore, altre volte parla di viti, uva. Io immagino quelli che stanno a Milano, a Roma, che forse vedono un trattore solamente quando i loro bambini giocano con i giocattoli, non so cosa possono capire. Noi vediamo passare dei trattori alti come una casa, con dei carri enormi sulle nostre strade, però anche noi corriamo il rischio di non capire bene Gesù, perché ai tempi di Gesù non c'erano tutti questi macchinari per coltivare la terra. E allora Gesù ci parla di un seminatore che semina ancora a mano e semina del buon grano con abbondanza tale che persino un po' di grano cade sul sentiero dove passano le persone, dove passano i carriaggi. E lì evidentemente il seme non può spuntare perché il terreno non è arato. E poi vediamo gli altri terreni e Gesù, mentre spiega questo e mentre io cerco di spiegarlo a voi, vuole insegnarci una verità, cioè che il seme è buono, che il seme è vivo, se non porta frutto non dipende dal seme, dipende dal terreno che trova. Infatti, appena seminato il seme lì sul terreno, arrivano gli uccellini, beccano e non c'è più traccia, come se neanche l'avesse buttato. Il contadino butta ancora questo seme a mano e un po' di seme cade sul bordo. Sul bordo del campo di solito ci sono i sassi, c'è un po' di terra, e allora il grano va dentro tra un sasso e l'altro, trova la terra, spunta, ma poi non ce la fa a crescere perché non ha radici e dopo un po' che è spuntato muore. E questo rappresenta noi quando, sì, ascoltiamo la parola di Dio, quando sento qualcuno che mi dice sì, a messa vado Natale, Pasqua, quando ci sono le feste, caro amico, tu mi assomigli a questo terreno dove c'è un po' di terra, ma non può spuntare bene, come se tu andassi a scuola solamente poche volte, se tu andassi al lavoro solamente un po' di giorni, altri no. Se tu facessi allenamenti per il tuo sport, un po' sì e un po' no, non porterai mai dei risultati. E infatti, noi vediamo tanti cristiani, magari noi stessi, che partiamo con buona volontà e poi dopo ci si ferma, non si va più a scuola di catechismo, oppure neanche ci si va. Si è cominciato a pregare il rosario perché uno magari è andato a un pellegrinaggio a Lourdes, a Medjugorje, e dopo un po' di tempo non ha radici, non prega più, non fa più quel digiuno che aveva iniziato a fare. Il seminatore continua il suo lavoro e un po' di seme cade su un terreno che sembra buono, un terreno arato, un terreno bello. Solo che è un terreno in cui ci sono anche i semi delle erbe cattive. E voi sapete che le erbacce selvatiche hanno una buona vitalità, crescono meglio del seme buono. E allora lì anche il seme produce poco, perché le erbacce lo coprono, gli tolgono luce, gli tolgono umidità e lo fanno appassire. E questo assomiglia a noi. Quando anche noi riceviamo il seme della parola di Dio, spuntiamo, cresciamo. Ma se io vedo i bambini nella mia chiesa, vedo 4 bambini, dico: bravi che siete qui con i vostri genitori, ma tutti gli altri che magari faranno anche loro la prima comunione, faranno anche loro la cresima, ma dove sono? Non ci sono. Nel loro cuore Dio ha seminato il seme della parola di Dio, ma poi la pigrizia, la voglia di andare a spasso a fare le castagne invece di venire in chiesa, l'andare a fare la partita invece di partecipare alla messa e al catechismo, tutte queste altre cose che non sono il buon seme soffocano. E basta, ed è finita. Finalmente del buon seme cade sul terreno buono, e allora lì avviene un prodigio della natura. Da un solo chicco viene fuori una spiga che ne contiene 10, 15. E allora si fa gioia, perché finalmente quel seme produrrà cibo per mangiare. E allora tanta gente che, spero tutti voi, che venite a messa regolarmente, pregate, vi confessate, fate la comunione e producete frutto anche per la vostra vita. Magari qualcuno di voi sta pensando, dice: Don, ma stai parlando solo della messa domenicale, ma è così importante? Io conosco tanta gente che dice: ma non è necessario andare a messa per essere buoni cristiani. E no, non sono d'accordo. Anzi, Gesù non è d'accordo. Perché Gesù dice: se tu mangi la mia carne e bevi il mio sangue, che è la comunione, avrai la vita, altrimenti no. Allora, cari amici, anche noi che siamo tentati alcune volte, o d'estate quando si va in vacanza, oppure in questo periodo di lockdown, di dire: tanto la vedo alla televisione, è inutile che vado a messa, se non fai la comunione non può crescere in te questo grano. Ma non perché lo dice il prete, perché lo dice Gesù nel Vangelo. Se non vai a messa non puoi essere perdonato dal sangue di Cristo, del sacrificio eucaristico. No, amici, no. Troppe volte noi facciamo un altro Vangelo. Il Vangelo dice le cose che vi sto spiegando io, ma qualcun altro, forse anche noi, forse anche in casa nostra, abbiamo un altro stile. Il Signore accetta tutto, però guai a noi. Guai a noi. Il Signore semina del buon seme, ma se non spunta, se non porta frutto, non è colpa del seme, è colpa nostra. Quante volte io sento la gente che dice: io sono arrabbiata col Signore perché ho chiesto una grazia e non me l'ha data, ho chiesto un favore e non mi è venuto incontro. Io non credo più nel Signore. Amico, sai perché Dio non ti ha ascoltato? Perché in te non ha trovato un terreno buono. In te ha trovato un terreno duro, un terreno sassoso, un terreno spinoso. Ma come bisogna fare? Bisogna cominciare a liberare il nostro terreno dalle spine, dai sassi, ararlo bene, concimarlo bene, e allora produrrà frutto. Oggi vediamo tantissima gente anche attorno a noi, vicino ai nostri palazzi, vicino alle nostre case, che non va in chiesa, che salta la messa domenicale, Noi non dobbiamo giudicarli perché è il Signore che giudica, ma però che questo non capiti a noi, amici, perché senza la messa della domenica il seme che Dio ci ha dato col battesimo, con la cresima, con la prima comunione, quel seme lì muore.